Stress non è solo una parola attuale, ma è una realtà spaventosamente reale e negativa dell'uomo del XXI secolo. È un flagello della vita moderna, generatore di stanchezza, conflitti, malattie, depressioni. Il termine stress fu utilizzato per la prima volta in campo medico negli anni 30 del secolo scorso dal professore Hans Selye, filosofo presso l'Università di Montreal, secondo il quale esso costituisce uno dei sintomi generali dell'adattamento. Così, una bella notizia, una grande emozione, provocano nel nostro corpo gli stessi effetti di un dolore, di una delusione o di una sconfitta. Quindi, senza stress non è possibile vivere. Anzi, un poco di stress, come per la paura, non è un male, perché in certe situazioni un po' di tensione aiuta a superare situazioni difficili con una maggiore affluenza di adrenalina, una sostanza che esercita un'azione inibente. Quando mi sono sposato, come per tutti i novelli sposi, ero teso, e ricordo che nell'entrare nel locale di culto con la musica e con tutti gli sguardi rivolti su di me, se non avessi agito in un certo modo, dalla tensione avrei ceduto in un pianto irrefrenabile. Nell'uso corrente la parola stress è una tensione nervosa, un logorio, un affaticamento psicofisico, e non vi è immagine più reale della società di oggi, al punto che un terzo degli italiani ricorrono agli psicofarmaci. Si calcola che milioni di persone ogni giorno si tolgono la vita a causa dello stress, il lavoro degli psicologi aumenta del continuo, la vita è intrecciata di stimoli stressanti che influenzano in modo differenziato ogni individuo, perché ogni individuo è irrepetibile. Tutto ciò al punto da poter dire che non vi è maggior compagno della vita dello stress. Perciò, lo stress al quale mi rifaccio è quello provocato inutilmente e non salutare. Dato che ogni effetto ha la sua causa, è molto più saggio trovare la ragione dell'inutile e dannoso stress che toglierlo mediante l'aiuto della medicina. Perché è come usare un deodorante per togliere uno sgradevole odore anziché trovarne la fonte. Ci fu un periodo che nella nostra sala c'era un odore antipatico e mia moglie dava del continuo lo straccio per terra con un deodorante, ma l'odore era sempre presente finché venne il giorno che decidemmo di spostare il sofà e sotto vi trovammo un piccolo topo morto. Così è inutile togliere lo stress negativo se non si esaminano le cause che determinano questo atteggiamento sbagliato verso la vita. Vari sono i fattori che portano allo stress, e la prima di queste è certamente la continua tensione negativa. La vita è certamente tutta una tensione, perché un matrimonio, la prima sera di nozze, una nascita, crescere il primo bambino, il primo giorno di scuola, il primo giorno di lavoro, appuntamenti importanti, producono una tensione, ma ciò che logora la vita è il modo, l'atteggiamento, o lo stato d'animo con il quale si affrontano gli avvenimenti della nostra esistenza. Un giorno procedevo in macchina verso una località che avrei raggiunto dopo 2 ore per avere un incontro importante e delicato, e mentre guidavo cantavo degli inni a Dio e mi godevo il panorama insieme ai pensieri positivi che mi... Ad un tratto ho compreso cosa sia lo stress. Lo stress non è altro che vivere tra due eventi, meno la partenza e l'arrivo meno, con una continua tensione. Non sono tanto i due eventi della partenza e dell'arrivo a creare lo stress meno, anche se essi hanno una tensione, ma una tensione positiva che fa parte della vita meno, ma è l'inquietudine di arrivare subito. Il nervosismo dell'ignoto incontro, l'inaccettabilità che le cose non vadano come noi speriamo o abbiamo programmato, la paura di perdere del tempo inutilmente. Questo è lo stress. Questo è ciò che si chiama il logorio della vita. Il logorio della vita non solo tanto gli inevitabili eventi, come la nascita, la morte, le malattie, ma l'atteggiamento che assumiamo tra questi eventi. Una cosa è 2 ore di guida in macchina con un cuore allegro, riconoscente, fiducioso e arrendevole, altra è mantenere per 2 ore tensioni, paure, nervosismi e pensieri negativi verso il prossimo. Chi arriva a destinazione è evidente che non può neppure affrontare i successivi impegni con il dovuto atteggiamento. Così, a logorio si aggiunge logorio. A stress si aggiunge stress. È evidente che il nostro modo di vivere è il fattore più importante per la nostra salute psicofisica. Un antico detto precitava: l'uomo non muore ma si uccide. Uno spot pubblicitario diceva: contro il logorio della vita moderna prendi un Sinar. Ma noi non abbiamo bisogno di aperitivi, bensì di pace, di serenità e di sicurezza. Contro il logorio della vita moderna, contro l'accumulo di frustrazioni su frustrazioni, delusioni su delusioni, amarezze su amarezze, vi è la risposta di Dio che merita di essere presa in considerazione. Comunemente si pensa che le cose di Dio appartengano a ciò che è religioso, che Dio sia adatto solo per la nostra anima, ma non vi è nulla di più pratico e di salutare delle vie che Dio ha decretato. Proprio perché vi è un atteggiamento negativo nei confronti di Gesù Cristo, l'uomo materialista di oggi non può risolvere i suoi problemi e soprattutto è schiavo dello stress. La parola di Dio, sempre pratica, si chiede: lo spirito dell'uomo lo sostiene nella sua infermità, ma chi può sollevare uno spirito abbattuto? Proverbi 18.14. E ancora: un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. Proverbi 17.22. Pochi hanno compreso che nella nostra esistenza terrena ciò che veramente vale non è il benessere smoderato, non è accumulare beni su beni, non è la sicurezza economica, ma un cuore sereno e la pace con se stessi, con gli altri, con Dio. E lo spirito che sostiene e produce benessere al corpo non è il corpo che solleva lo spirito. Certo, il corpo e lo spirito sono interdipendenti, perciò quando si ha un atteggiamento positivo verso la vita anche il corpo ne risente un benessere positivo, ma curare solo il corpo, frequentare continuamente un centro di bellezza o dedicarsi al culturismo, a poco serve se la persona è tesa o in conflitto con altri. Per quanto ostinatamente si continua a ignorare o sostenere il contrario, lo stress non è una malattia del corpo ma dell'anima e dello spirito, e dato che la maggioranza delle persone non si cura di ciò che non si vede, riceve come regalo del progresso lo stress e il lento ma inesorabile logorio del sistema nervoso. Quando si parla di fede in Cristo non ci si riferisce ad bigottismo religioso, a quella forma di vita pia cosparsa di tensioni e paura di non osservare le regole imposteci o che ci siamo imposti. Ma la vera fede in Cristo comporta una relazione personale con una persona, o meglio con la persona di Cristo Gesù. Per quanto se ne dica per la quasi totalità dei religiosi e di coloro che si professano cristiani, Gesù Cristo rimane una persona sconosciuta, o lo vedono come un insieme di regole da osservare, perciò è necessario ritornare a quel vero rapporto con Cristo che libera innanzitutto dallo stress e produce quella serenità che non è umana ma divina. Da tempo, quando ci si incontra tra amici e parenti, alle domande formali «Come stai?», la mia risposta è sempre quella: sono in armonia con la vita. Ma non è possibile essere in armonia con la vita se prima non si è in armonia con Cristo. Per chi cammina con Cristo, tutto diventa più relazionabile e accettabile. Senza Cristo ci si alza stanchi, si vive logorati, si va a letto sfiniti. Anche se una relazione sbagliata con la vita produce lo stress, una ragione fondamentale dello stress è la mancanza di riposo. Pochissimi danno importanza a questa necessità biologica, altri disprezzano la stanchezza come se questa fosse solo un intralcio per realizzare i propri obiettivi. Eppure, la stanchezza è un campanello d'allarme del nostro corpo, che richiede un momento di stacco. A volte non è possibile riposare perché la vita con gli impegni di famiglia, del lavoro, impediscono proprio un riposo fisico adeguato. Ma più che il riposo fisico occorre ribadire che il vero riposo è quello spirituale, cioè dell'anima e dello spirito. Quando Gesù disse «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo», parlava del riposo per chi non conosceva il dono della salvezza dell'anima. Ma quando aggiunse «Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero», Matteo 11.2.8.30, si riferiva al riposo che avrebbero trovato in lui tutti quello che lo servono. Ancora una volta il messaggio di Cristo non è utopistico, non è per chi vuole sognare ad occhi aperti, ma è rivolto a chi veramente vuole vivere senza stress e in modo riposato. Un'anima travagliata perché non trova riposo in questa vita e non riesce a trovare appagamento nel profondo del suo essere, trova la soluzione accettando che il sacrificio di Cristo sia stato sufficiente per ricevere una volta per sempre il perdono dei suoi peccati e ad avere la riconciliazione con Dio. E chi è travagliato e stressato nonostante abbia posto fede in Cristo può trovare il riposo accettando da parte di Dio senza condizioni e lamentele ciò che è sgradevole e apparentemente negativo per lui. Il vero stress è quando pretendiamo che la vita scorra secondo i nostri punti di vista, quando non si è riconciliati né si è in comunione con Dio, quando abbiamo imboccato una strada che non corrisponde alle nostre più profonde necessità, quando i nostri pensieri sono comunque negativi e disumani, quando non prendiamo nuove forze, nuove energie, nuovi pensieri, nuovi orizzonti, nuove mete mediante la lettura della parola di Dio, la preghiera, la comunione con i figli di Dio. Tutto ci è a portata di mano. Tutto è stato preparato. A noi non resta che accettare il dono abbondante della vita così come è stata concepita da Dio. Lo stress, in definitiva, è la mancanza di armonia con la nostra sussistenza. Come un pesce fuori dall'acqua è stressato, così senza i tre elementi di armonia, cioè il nostro rapporto con Cristo, con il prossimo e noi stessi, noi siamo stressati. Mentre il giusto rapporto dona vita e felicità. Provare per credere. Giugno 2006. Ellero.